la strada. Eravamo io e te. E la gente che correva quanta gente intorno a noi. E passava lento come un fiume di parole sulle nostre discussioni. Per noi che cercavamo un'altra vita, un altro mondo. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Come corre questo treno? Perché mi porta via dal tuo corpo, dal tuo seno. Quanto traffico stasera.